Allora, secondo me avrebbe tante cose da insegnarci, ma tante. Tantissime. Sì. Però lei è diventata così famosa per i 24 anni di differenza in più che la separano dal marito, che non sono pochi. Sì, che facendo un'analisi attenta sono la stessa differenza di età che c'è tra Trump e Melania. Esatto, avevi notato? Brava, vedo che hai studiato. Però la cosa, chissà perché, di là non fa notizia. Invece lei... più grande di 24 è una notizia. Perché fa anche un certo effetto. Sì, fa ancora un certo effetto. Comunque, storia fantastica. Lei insegnante nella scuola di lui, sì. Sposata, 3 figli e lui un ragazzo di soli 17 anni. Così è cominciata. Si sono sposati, infatti, nel 2007 e pare che sia proprio lei la stratega che ha portato lui a diventare forse il prossimo presidente di Francia. Si pensa che forse gli rilegge anche i discorsi. Ma gli riscrive proprio, esatto, secondo me, non solo gli rilegge, ma sta facendo molto bene. Dedita alla causa, sì. Però anche un grande amore. E sicuramente. Comunque, beh sì, scusami, non ironizzare su questo. Comunque, non è l'unica. A me, per esempio, vengono in mente Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, e lui aveva 14 anni meno di lei. Sì, ma 14 diverso da 24, però però era inizio Novecento, quindi vale molto di più. È come 50. Comunque, i miei riferimenti sul tema invece, come al solito, sono diversi, perché mi sono un po' documentata e ho trovato questo sito molto interessante che si chiama cougaritalia.com, ecco. E il sottotitolo è Incontro per donne mature a caccia di uomini. Aggiungerei giovani, perché Krav, diciamolo, chi è la cougar? Allora, sempre sul sito e poi anche navigando più specificatamente sul tema. Hai fatto molte ricerche. Esatto. Brava. Allora, bisogna fare delle distinzioni categoriche. Categoriche. Okay? Bene. Allora, ad esempio... Brigitte, partiamo, ecco, da lei. Okay. Allora, non è un soggetto facilissimo da catalogare. Questo sicuramente no. Perché per capire se Brigitte è A, una MILF, A, B, una cougar, B, C, una GILF. Io non so se ce la posso fare. Ti devo dare un po' di notizie su queste 3 categorie. Ah, va bene, vado. Andiamo, vai. Allora, dicesi MILF, deve essere una donna, sì, che ha compiuto i 40 anni, essere madre di uno o più figli. Vabbè, però non tralasciamo l'essenziale, soprattutto deve essere, diciamolo, figa. Ecco, quindi io sono una MILF. Ah! Ho sorpassato i 40 e mi categorizzo. Comunque si dice, deve essere in quello. Quindi anche se sei anche ritoccata, perché devono essere possibilmente ritoccate, sì, e soprattutto appetibili da parte degli amici, dei figli. Esatto. Salve. Ciao. Sto cercando Paul Finch, l'hai visto? Che cosa desidera da Finch? Sono venuta a prenderlo. Sono la sua mamma. Finch ha una mamma? Voglio dire, è lei la sua mamma? Sì, tu sei un suo amico? Oh, sì! Paul è tipo il mio migliore amico. Gli voglio un bene pazzesco, lo amo. Devo dire, Orazio, che mai? Bene, Krav, quindi, ma scusa, in poche parole, la MILF non è cacciatrice, ma è preda. Cioè, ma io immagino la scena, quando tu vai a prendere a scuola i tuoi figli, ti succede questa scena? I miei bambini hanno 6 anni e 2, per cui non ancora, ancora, ma lo spero. Arriverà. Comunque, oltre la MILF, poi abbiamo detto che c'è la cougar. Il puma. Tradotto. Esatto, la giaguara. La giaguara o panterona. Sì. Però vedi che le sai anche tu. Queste comunque cose arrivano anche a me. Allora, attenzione, perché questa potrebbe essere una categoria che ti interessa, perché sono donne dai 35 ai 55. Papabili. Papabili. Anche senza figli. Sì. E in certi casi, ma solo in certi casi, coincidono con le MILF. Quando hanno figli. Esatto, però non solo. Perché... le cougar sono trucco aggressivo, il mio uguale, abbigliamento manifestamente provocante, ci sono, al bisogno frustino e giarrettiera, certo, insomma ti ci ritrovi. Beh, mi passi il frustino, l'ho messo lì dietro, me lo ridai un attimo. Quindi tu sei un po' cougar a giorni alterni, però c'è un'altra cosa interessante delle cougar, che come calcolare l'età. Okay, come si calcola? Allora, l'età? La tua preda deve avere esattamente la metà dei tuoi anni più 7. La Vai. Metà dei Calcolo. Miei anni più 7. Vabbè. Io faccio il conto mentre intanto tu... Mentre tu fai il conto, bene, ti dico qual è l'ultima categoria, che sono le GILF. Oh. Hai già sentito? Me l'hai detta prima, è una novità assoluta. Allora, le chi GILF sono? È come le MILF, ma al posto della M di mother, mother. C'è la G di granny, che di... è la nonna. Nonnina, ti prego, ti prego. Quindi donne. Donne, è arrivato la rotina. Donne, era quello. Over 50. Sì. E... senza limite d'età, sempre, che hanno avuto Highlander, figli, sì, esatto, e soprattutto figli dei figli, per cui nipoti. Okay. Non ti immaginare la nonnina con no, girello, no, la no, cosa. Tu chi visualizza Jane Fonda. Va bene, okay, ci sta. Che hanno anche questa una particolarità. Quali? E che sono molto esperte. Eh beh, è un pochino per forza. Ecco. Comunque ho un numero. 20... Ce lo giochiamo? 26. Ho fatto il calcolo. Brava. Grazie. Il mio, ecco, uomo ideale. Ecco, vedi però che abbiamo concentrato il target, per cui sappiamo da dove si può partire. Vabbè, però io tutto ciò, Krav, non ho ancora capito bene. Brigitte, la Brigitte nostra BB. È una fuoriclasse, eh? Perché spazia su tutte e tre le categorie. Perché era MILF al momento in cui ha incontrato Emanuele. Sì. Poi è diventata chiaramente cougar. Certo. E adesso probabilmente a brevissimo diventerà nonna, per cui diventerà una gilfa a tutti gli effetti. Ma tutte queste categorie per gli uomini esistono? No, allora tu te ne devi concentrare su un'unica, che è 26. Ah, no, no, no, no, volevo e si fare un po' la toy bacchettona. Boy. No, no, no. Vabbè, allora, mentre io penso a questa categoria del 26, ti dico che ho letto un libro bello. L'ha scritto una donna, fuori dalle categorie. Perché quanti anni ha? No, non è questo il punto. Una donna di grande talento e appunto fuori dagli schemi. In qualunque altro paese si sarebbe dimesso. Una frase ormai nell'uso comune che registra l'anomalia di un paese che ha rinunciato alla dimensione individuale della responsabilità politica ed etica. Lo scrive Alessandra Sardoni in Irresponsabile, il potere italiano e la pretesa dell'innocenza, in cui la conduttrice di Omnibus, inviata della redazione politica del TG di La Sette, racconta appunto un paese di irresponsabili e lo fa partendo da casi specifici. Dal lascio alla politica di Matteo Renzi, oggi trionfatore delle primarie, andando a ritrosa fino al 2001, il G8 di Genova e le atrocità all'interno della Diaz. E allora partiamo dalla Diaz. Alessandra Sardoni, tu ti concentri sulle vie di fuga che permettono l'irresponsabilità. E a proposito delle atrocità all'interno della Diaz e alle coperture successive, parli di consociativismo, ovvero una mano lava l'altra? Parlo di consociativismo perché quella che doveva essere una reazione, diciamo, quasi automatica e che in nessun altro paese non sarebbe stata automatica, ovvero le dimissioni del capo della polizia o del ministro dell'interno o di tutti e due dopo quello che è successo nella scuola Diaz, in realtà non viene compiuta per un patto consociativo, nonostante sia l'epoca del bipolarismo muscolare, tra il governo entrante, che è quello di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, e quello uscente, che era quello del centrosinistra, allora guidato da Giuliano Amato, che aveva nominato il capo della polizia Gianni De Gennaro. Una casella talmente importante che per difendere quella casella e dentro la casella questo un personaggio di sicuramente di grande valore come poliziotto antimafia, investigatore, eccetera, che però è oggettivamente responsabile perché è il capo in quella situazione, per proteggere questo si avvia un processo di coperture successive che racconto stenografici dei sì, comitati parlamentari sì, alla mano, e che poi dice molto del potere, del consolidarsi del potere nonostante una scivolata, se vogliamo chiamarla scivolata, con quel grado di tragicità. Senti, tu parli anche della via o della scorciatoia giudiziaria che porta a trarre beneficio dalle inchieste e dalle intercettazioni ponendosi sulla soglia. E anche qui citi il caso specifico, quelle di Anna Maria Cancellieri, scrivi, sono uno strumento per logorare il premier Letta e gli avversari nella competizione alle primarie. Insomma, Renzi preparava lo stai sereno Enrico? Lì nel caso dei cancellieri sicuramente Renzi cerca di, insomma, si schiera su una posizione di richiesta delle dimissioni, nonostante appunto non fosse indagata Anna Maria Cancellieri, sì, perché lo sarà ancora dopo. Quindi Renzi fa questa cosa per ottenere le dimissioni, sicuramente anche per logorare il governo, ma soprattutto poi però ne rimane impigliato nei casi successivi, perché la via giudiziaria che tutti imboccano alla fine anche ritorce sempre contro, perché poi ci si ritrova vittime di questo circuito del doppio pesismo, perché uno dice sì, ma allora perché se la Cancellieri tu hai chiesto le dimissioni, poi invece difendi Luca Lotti o la Boschi, il papà della Boschi, poi è prosciolto, ma insomma si innesca questo meccanismo. Comunque il rapporto tra giustizia e politica è uno dei cardini delle responsabilità. E le cosiddette porte girevoli tra politica e magistratura sono anche lo strumento per un altro passo avanti dei magistrati e un passo indietro nel senso di deresponsabilizzazione della politica? Sì, le porte girevoli sono sicuramente un altro segno dell'irresponsabilità, in questo caso dei giudici, perché c'è anche quella. L'immagine che mi viene è proprio quella del labirinto di cui siamo un po' tutti prigionieri, cioè anche i media in qualche modo, dicono proprio questo, che cambio di una delega alla magistratura che la politica fa da molto tempo, e alla quale la delega che permette il ricambio delle classi dirigenti, di eliminare, sì, tu parli di Tangentopoli dall'inizio, esatto, sì, esatto, da Tangentopoli in poi, questa delega alla magistratura naturalmente poi ha un prezzo, e il prezzo è un'invasione di campo da parte della magistratura e una irresponsabilità, diciamo, di tipo tecnico, e naturalmente le porte girevoli danno un'ulteriore possibilità. Devo dire che sulle porte girevoli adesso forse finalmente un tentativo di regolamentazione, anche i magistrati lo hanno chiesto tra l'altro, per non tornare indietro dalla politica poi alla magistratura, che è la cosa ancora più grave. Però certamente quello è il cortocircuito, non c'è niente da fare. Senti, c'è poi un potentissimo strumento di deresponsabilizzazione che è il capro espiatorio, e tu scrivi che finché è forte al potere si perdona. Insomma, il capro espiatorio è debole per definizione, quindi i potenti di fatto resistono, quelli che cadono sono i deboli. Sì, sono i deboli che però si mettono e accettano, così cedono alla tentazione della personalizzazione. È il caso che faccio io come esempio di capro espiatorio, è quello di Elsa Fornero e della sua riforma delle pensioni, perché in un governo tecnico lei accetta la logica della personalizzazione, ci mette la faccia, anche le lacrime raccontano questo, anche con degli elementi sicuramente di voluttà o di vanità del doverismo, una certa sua mentalità, un ritratto che si cerca di fare, però poi alla fine anche quella che tecnicamente scrive questa riforma ci mette la faccia, la votano però tutti, è la riforma salvifica in quella fase con l'Italia sull'orlo del baratro, anche con nonostante il prezzo amaro della questione degli esodati, poi ridimensionata e corretta nel tempo, e però a tutti fa comodo che ci sia un capro espiatorio. Quel capro espiatorio, diciamo così, lei si mette nel ruolo quello classico che poi porta a essere il capro espiatorio, perché accetta la logica della personalizzazione, e per gli altri è molto comodo, per tutti quanti, per tutte le forze politiche che hanno votato quella riforma, compreso e anche per il sindacato, che aveva fatto soltanto 4 ore di sciopero in realtà allora. Alessandra Sardoni, Irresponsabili, il potere italiano e la pretesa dell'innocenza, Rizzoli. Sì, in effetti interessante, soprattutto lei, preparatissima. Lei, la Sardoni, preparatissima. Beh sì, molto, molto interessante. Diciamo che si è concentrata su argomenti un po' diversi dai nostri. Un però po' di sostanza magari. Sì, però l'impegno è lo stesso. Ma quanti anni ha la Sardoni, mi dicevi? Ha figli? No, questo categoria. Non te lo permetto, fermati, non te lo permetto. No, perché io invece, sempre parlando di età, ho intervistato un pischello che mi è piaciuto un sacco. È successo? Ti sei impazzita? È la primavera, Cravo, che hai? No, aiuto. Lui è veramente un pischello, senti. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Federico Lobuono, 17 anni, nato a Lecce, vissuto a Bari ed ora trasferito a Roma, dove studia e lavora. È appassionato di tecnologia, di videogames e di politica. Ha fondato Breaking Tech, un blog di tecnologia e startup, e Pischelli in Cammino, un blog per avvicinare i giovani alla politica. Federico, ma preferisci la tecnologia o la politica? Ma sono due cose diverse, mi piacciono entrambe, non ce n'è una che preferisco di più. Io penso che forse in futuro la tecnologia e comunque il giornalismo potrà diventare il mio lavoro. La politica la prendo come un impegno sociale, ma non penso che farò il politico da grande. Senti, la tua storia di giovane appassionato di politica però è diventata famosa quando sei riuscita ad avvicinare Renzi al Lingotto e fargli alcune delle domande. Poi lui dal palco addirittura ti ha citato e ha detto: c'è un ragazzo del 2000 che mi ha fatto una serie di proposte a raffica e ammetto mi sono sentito anche un po' in difficoltà. Ecco Federico, ma che cosa gli hai chiesto a Renzi? L'ho detto che non basta fare le riforme giuste se poi utilizza un fischietto per cani per comunicarle. Ho detto che bisogna comunicare in maniera differente con i giovani, che il partito si deve muovere meglio sui social, perché i ragazzi non leggono i giornali. Ecco Federico, ma dal Lingotto alle primarie, Renzi ha fatto qualcosa che gli avevi suggerito tu? Ha lanciato la sua nuova app, Matteo Renzi, che appunto permette già di entrare in contatto in maniera più semplice, di comunicare anche con gli altri, Quindi gli hai suggerito per queste primarie di parlare di più ai giovani, così? Di più ai giovani, e secondo me appunto l'intera comunicazione del Partito Democratico dovrebbe essere lasciata, parlo di quella con i giovani ovviamente, ai giovani, insomma ci dovrebbe essere qualcuno per ogni fascia d'età, perché io non penso che una persona di 50 anni possa riuscire a raggiungere un ragazzo, noi li chiamiamo pischelli, di 16-17 anni e viceversa, insomma. Ecco, quindi con il tuo blog Pischelli in Cammino, quanti ne sei riuscito a portare a votare alle primarie? Con le nostre disponibilità, quindi fondi zero, siamo riusciti a coinvolgere più di 1500 ragazzi sotto i 18 anni e più di 500 fino ai 25. Tutto questo in un mese, ripeto, senza alcun fondo né nulla, ecco, semplicemente con la nostra voglia di fare. Senti, ho letto che ti sei appassionato di politica recentemente, cioè dalla sconfitta di Renzi al referendum. Perché? Beh, diciamo che in realtà io mi sono interessato da prima alla politica. Io non penso che ci si possa lamentare di qualcosa se poi non si prova a fare nulla per cambiare, nel senso non mi sembra corretto, non mi sembra giusto lamentarsi del lavoro di qualcun altro se poi non si fa effettivamente qualcosa per cercare di cambiare. Ecco, ma secondo te perché Renzi ha perso al referendum? Ma allora, innanzitutto a me non piace parlare del passato. Allora ti faccio un'altra domanda. Al referendum lo avevano bocciato i giovani ed ora le primarie invece hanno cambiato idea? Non hanno cambiato idea, però certo c'è un lavoro che va fatto. Io ho visto tantissimi ragazzi nelle piazze, nei vari gazebo a lavorare, a dare una mano. Ora deve lavorare a questo, deve cercare di riacquistare la fiducia da parte dei giovani. Questo è sicuramente un grandissimo e durissimo lavoro, ma andrà fatto. Senti Federico, ma sì, secondo te, scusami, ma perché a te piace così tanto la politica e invece in generale c'è abbastanza una distanza tra i tuoi coetanei? C'è una distanza proprio per questo motivo, perché non si può pretendere che siano i ragazzi ad andare dai vari partiti, ma devono essere i vari partiti ad andare dai ragazzi. Allora io conosco tanti ragazzi come me che hanno la passione per la politica, ma ce ne sono tanti altri che magari sì, sono interessati al loro futuro, vogliono sapere, vogliono conoscere, però a questo punto, in questo momento, si dovrebbe mettere il partito qualsiasi a lavorare. Senti, ora che è diventato di nuovo segretario del PD, cosa ti piacerebbe che facesse? Allora, ripeto di nuovo la cosa della comunicazione lasciata ai giovani, questo secondo me è un punto importantissimo. Dopodiché noi abbiamo fatto una proposta che riguarda il progetto Interrail, no? Quel biglietto ferroviario, certo, con 300 euro circa ti permette di viaggiare per un periodo di tempo illimitatamente all'interno di tutti i paesi europei. Sì. Noi vorremmo che almeno una tantum questa venga data gratuitamente. Senti Federico, ma non è che tra un po' sarai tu a rottamare Renzi? Come già detto, io al momento non ho ambizioni politiche, ma quello che farò tra 10 anni non lo so. In ogni caso vedremo, ecco. Beh, sveglio il ragazzo, il pischello, molto interessante in effetti. Non trovi? Però molto. Scordatelo, perché non è maggiorenne, ne ha 17. Ma no, io guardi, io sono ferma a 26. E tu devi concentrarti sui 26, ok? Oggi sei difficilissima e poi non tieni conto di una realtà che su cui io ormai faccio grande affidamento. Qual la, è? La clausura, oh, oppure mia, la fuga. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Allora, a proposito di fuga, che non è la tua, ma è la fuga dei cervelli all'estero, c'è un blog che è stato fatto proprio da una mamma e da una nonna. Da una granny. Da una granny, forse ex cougar. Perfetto. Esatto, che si chiama mamme di cervelli in fuga.com. Ah, carino. Allora, tutte queste mamme, tutti questi papà che si sono trovati a rimanere da soli perché i figli sono andati a cercare lavoro all'estero, orfani di figli, orfani di figli, si ritrovano su questo blog scritto da questa signora, mamme di cervelli in fuga.com. Esatto, lei si chiama Brunella Rallo, una signora di Napoli che ha detto che obiettivamente lei si ritrovava a confrontarsi con altre mamme e altre nonne dicendo: ma noi siamo rimaste qua, ma di loro non sappiamo niente, i nostri nipotini che si fa? Facciamo un blog dove ci confrontiamo sulle nostre esperienze. Ecco, lo sai che questo lo vado a vedere perché deve essere pieno di storie interessanti. L'articolo l'ha scritto Concita De Gregorio sulla Repubblica e racconta di questa nonna che faceva questa telefonata via Skype con la sua nipotina, che cercava di fargli assaggiare il gelato spiccicandolo sullo schermo del computer. Carino. Per cui è un modo divertente di ricreare un rapporto che obiettivamente non c'è anche in lontananza. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Con Rehab di Amy, grandissima Amy Winehouse, ecco Franco Schipani. Ciao Franky. Ciao Ale, ciao Ale. Ciao, siete in palla oggi, è un argomento che vi piace. Ma l'hai dedicata alla cravetto, Rehab? Rehab da me stessa. No. Non dirlo, che non dirmi che l'hai dedicata a me. No, no, lo no, sai no, che no, sono no, volubile. No, no, no. Non avete bisogno di me oggi, state andando benissimo. Sì, Sì, Franky. Ma in quale categoria ci metti? Non lo voglio sapere. No, no, no, no, io mi tappo le orecchie. Ricordatevi una cosa, le donne prima dei 18 anni sono protette dalla legge, dopo i 70 dalla natura o dall'anagrafe. E tu in che categoria ti metti invece? No, io sono fuori categoria, ormai non ci penso più, ho raggiunto la pace dei sensi, guarda, assolutamente. Vabbè, ok. Allora, questa è la splendida Winehouse, ricordiamo che lei appartiene al famoso circolo dei 27, quando lei è deceduta... Non 26? No. Ah, tu sei ancora lì sul 26. Lei mi ha detto pensa 26, io ho bisogno di certezze, mi aggrappo a quelle della cravetto. No, pensa, lei quando 26. È scomparsa aveva 27 anni, è morta il 23 luglio 2011. E come lei a 27 anni sono morti anche Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin. Lei è deceduta per un eccesso di alcol. Pensate che lei aveva smesso di bere, quindi per un lungo periodo, a un certo punto non ce l'ha fatta più e... Beh, storia forte. Storia forte. Lei comunque grandissima, entrata già nella storia della musica, o sbaglio? No, no, assolutamente. Se e lo allora, merito, Franky, perché una voce così, una personalità così, pochissime della sua generazione. Io devo abbandonare con un certo dolore oggi, in particolare Alessandra Gravetta. Ma in che anno andate? Andiamo nel 2006. Con quelli del 2006 quanti anni hanno? Ah, io lo so benissimo, mia figlia è del 2006, 10 cara, non ci siamo proprio. Però non magari siamo. Hanno un fratello maggiore, ok, no, ok, basta, ho capito qual è l'andazzo, va bene. E allora ciao Alessandro, ciao, Gravetto, Ale, ciao. E con Franco Schipani. Andiamo nel 2006. Subito dopo la pubblicità. Ciao.